sui casi di suicidio legati alla depressione. Vorrei ricordare una cosa un po' meno grave, ma che può far pensare. Quando la Pellegrini uscì dalla vasca per una crisi d'ansia. Ecco, e poi adesso è il quarto allenatore che cambia, è stata anche accusata di mangia allenatori, tra virgolette. Ecco, forse il fatto questi casi un po' di, diciamo, di disagio, di sofferenza, stanno a indicare il fatto che se le persone non riescono a essere veramente se stesse, soffrono. Questo indipendentemente dalla condizione di reddito, in questo caso lo sport, ma potrebbe essere anche in altri tipi di ambienti. La ringrazio e vi ascolto. Ringrazio lei Corrado, io devo dire che non ho questa stessa sensazione, poi per carità sono insondabili i meccanismi umani, però insomma la Pellegrini io la ricordo anche per esempio per questa polemica sulla sfilata inaugurale, sulla bandiera, mica la bandiera eccetera, torto o ragione che abbia, mi sembra che si stia parlando invece di una persona, sì che potrà avere per carità anche lei alcuni problemi da gestire, ma insomma diciamo di un'estroversa che se anche finisce sulle copertine dei quotidiani, come dire, non se ne ha così a male, mentre invece credo che i soggetti di cui si è parlato sino ad ora tendano a nascondersi, no? Tendano a precipitare nel buio, e mi pare che il professore ce l'abbia spiegato e come. Andrea, dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo solamente fare una notazione in merito alle mail che vi sono arrivate e sul tono polemico nei confronti delle persone che purtroppo hanno scelto questo tragico percorso per concludere la propria vita. E perché delle volte, ecco, probabilmente a me è capitato anche a casa discutere di questa faccenda, nel senso ci siamo confrontati dicendo ma cioè, queste persone che hanno tutto non mi fanno pena perché scelgono questa sorte. Ecco, io sono contento che il dottore invece abbia, che era in linea, non so se è ancora in linea, che abbia fatto presente questa cosa, cioè la sofferenza è una malattia che può colpire la persona di successo, la persona comune, la persona ambiente o la persona magari meno ricca. Certo, ha spiegato benissimo il professor Mencacci quanto sia trasversale questa la ragione, il germe insomma che può portare al suicidio. Ugo da Roma scrive: avete fatto un ritratto troppo romantico del suicidio, mi spiace ma dovreste stare più attenti a come si trattano certi argomenti. Ugo, io ci sto mettendo veramente il massimo dell'attenzione possibile e soprattutto non mi credo di essermi guardato bene dal dire come la penso, anche perché non avrebbe alcuna rilevanza e sarebbe soltanto magari anche di cattivo gusto. Ha detto come la pensa un luminare della psichiatria come il professor Mencacci, quindi non mi pare che questa che si sia fatto un ritratto romantico o non romantico. Certo l'approccio è laico, su questo sì, perché sennò si cambia trasmissione, sinceramente, questo è imprescindibile. Nicola da Modena, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Garanzini. Dica. Voglio fare un intervento senza nessuna polemica, perché non vorrei mischiare l'oro con la sabbia, perché finalmente, perché un giorno guardavo per televisione quei processi che trasmettevano su Rai 3 e ci fu una volta vidi il processo per l'antidoping per la Juve. Finalmente ho capito perché prendevano degli antidepressivi, perché come ha spiegato il professore la pressione e la depressione sono praticamente quasi connesse. Vi ripeto, non voglio mica far polemiche perché non è questo il momento e non è questo l'argomento. Comunque secondo me qualche società sa benissimo che la pressione può provocare alcuni problemini e si muovono in questi modi. Io la ringrazio. Ringrazio lei, può darsi che sia davvero così, può darsi invece che quegli antidepressivi avessero invece un'altra funzione, un'altra valenza, non sono sinceramente all'altezza. Mi piacciono molto, la ringrazio del suo intervento, mi piacciono molto certi messaggi che arrivano, per esempio Massimo scrive: non dimentichiamoci che lo sport è fatto da persone, non da automi, e persone lo scrive con la P maiuscola, e mi pare un altro approccio corretto questo. Ripeto, L'argomento è difficile, si presta, è scivoloso, si è su un crinale, no? Da un punto di vista etico, ma da un punto di vista anche proprio di meccanismi, non dico imitativi, ma insomma di suggestioni che possono persino diventare pericolose. Però, diceva il professor Mencacci prima, questi sono discorsi che vanno affrontati e che alla luce del sole sono comunque assai meno pericolosi che non tra le tenebre, quindi era un'occasione da cogliere, ripeto, soprattutto perché è ancorata a fatti di cronaca recenti e recentissimi addirittura. Vi leggo qualche messaggio, qualche mail ricevuta. Allora, per esempio, bravo, eccetera, vabbè, sulla puntualizzazione riguardo alla laicità del suo approccio di oggi, e io direi di sempre. Grazie davvero, Andrea Termine. Subito sotto, e allora, se è imprescindibile l'aspetto laico, è meglio che facciate proprio un'altra trasmissione. Gli risponde, o mi risponde direttamente, già anni da Firenze. Imprescindibile invece è ignorare l'altro e invece non ignorare l'altro aspetto, piaccia o no. Grazie per questa trasmissione, dimostra umanità, rispetto per le persone, Gabriele, eccetera eccetera, ma ce n'è uno che mi ha colpito e non poteva essere diversamente, in maniera molto particolare. È una mail appena arrivata, è firmata Antonio Figliolino da Napoli. E questo è il testo. Mio padre, il 12 novembre 2010, a 60 anni, si è tolto la vita, impiccandosi nel suo negozio a causa di questa maledetta crisi finanziaria. Capirà che oggi avrei preferito sentir parlare di Napoli-Juventus, ma è vero che la vita è anche questa. Un saluto dal suo affezionato ascoltatore partenopeo, Antonio Figliolino. Antonio, dai, proviamo a sentire questa vigilia napoletana, su cui però poi le dovrò dare una notizia non piacevolissima in ottica Napoli. Cominciamo da Conte, per diritto di ospitalità. Della Gardena col Napoli mi aspetto una gara tosta, vibrante, una gara per noi forse la più impegnativa d'inizio stagione, dove affronteremo una squadra che sta facendo grandi cose. Una squadra che sicuramente dimostra come con un progetto, con un lavoro, si ottengono dei risultati importanti. Quindi questo va a merito alla società del Napoli, a Mazzarri e ai giocatori che nel giro di pochi anni hanno costruito qualcosa veramente di bello. E allora è come se Conte avesse passato il testimone a Mazzarri, che sentiamo immediatamente. La Juventus è una tappa importante, come se lo sarebbe se si affrontasse l'Inter, Milan, la Roma, la Lazio. Io spero che tutta questa voglia che si percepisce, questa giusta pressione in questo caso, i ragazzi la sappiano convogliare nel modo giusto, perché poi alla fine c'è sempre un pallone, c'è sempre il campo, bisogna, come si è parlato fino ad ora, bisogna essere più bravi degli altri per prevalere. Quando siamo davanti alla porta a fare l'ultimo fermarsi, calmarsi come fanno i giocatori che da sempre sono abituati a sopportare certe pressioni di alta classifica, di vertice, di aspettative. Dicevo ad Antonio Figliolino prima, che ha mandato questa mail, insomma, che un brividino lungo la schiena non può non averlo fatto correre, credo, a più di un ascoltatore. Gli dicevo che Cavani non ce la fa per stasera, e quindi sono all'assenza di Marchisio nelle file della Juve si somma quella di Cavani, che abbia fatto il classico provino della mattinata, non superandolo, e quindi ci sono le varie alternative immaginabili, che possono essere Santana, Santana o Mascara, ma la sensazione che arriva da Napoli è che potrebbe essere invece la coppia Zuniga-Hamsik alle spalle di Lavezzi come unica punta, perlomeno inizialmente. Leonardo ha chiamato dalla provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho chiamato perché l'argomento trattato con il professor Mencacci, uno psicologo e uno psicoterapeuta, un counselor in realtà. Volevo dire questo per quanto riguarda il discorso del essere famosi, felici, eccetera. Ha anche intanto questo fatto un rovescio alla medaglia, cioè ogni cosa che una persona famosa fa sicuramente ingrandimento viene amplificato. Non, Leonardo, mi spiace perché era interessante il suo intervento, la richiamiamo tra poco perché c'è qualche problema, così come c'è tra Bologna e Imola, mi segnala un ascoltatore, E va bene, sono un prete, scrive Angelo da Cuneo. Come avete trattato questa questione è l'unico modo sensato, tanto più in un contesto non religioso. Mi vergogno di chi vi ha criticato e invece grazie. Angelo, io la abbraccio, nonostante lei sia un prete, ma questa è una battuta, sia ben chiaro, la abbraccio veramente con grande affetto, non credo che sia il caso di vergognarsi di chi ci ha criticato, perché insomma la libertà di opinione, tanto più in una materia immensa come questa, credo che sia un dovere più ancora che un diritto. Però la ringrazio per aver apprezzato questo taglio, la ringrazio davvero. Leonardo, l'abbiamo recuperato? Sì, forse sì, sulla linea 4 mi fanno cenno. Leonardo, ricominci, che va meglio adesso. Sì, buongiorno. Dicevo che da psicologo e counselor sono abbastanza sensibile, sono stato molto sensibilizzato dall'intervento del professor Mecacci, che appunto, sì, come le ricordavo, liminare. No, volevo solo puntualizzare una cosa, che riguardo a quanti dicono sono ricchi, famosi, hanno tutto e poi c'è anche l'aspetto del suicidio, che in questo senso l'essere famoso sia nel bene che nel male, tutto viene molto amplificato. Certo. Quindi per esempio faccio il caso di Osvaldo della Roma, del pugno, no? Di questi giorni, quanti amici si sono dati un pugno e nessuno ne ha mai saputo niente, eppure in questo caso l'aver dato un pugno a un compagno è stato molto amplificato, ripreso, ritrattato, punizioni e via dicendo. E c'è poi un altro aspetto che dovrebbe essere messo un attimo sotto la lente di ingrandimento, che sono le nuove forme di dipendenza, soprattutto le dipendenze da non sostanza, di cui è sempre più difficile poi venirne fuori, da gioco, da sesso, da shopping. Abbiamo avuto il caso Tiger Woods, che non ha tentato il suicidio ma aveva una dipendenza ben precisa. E mi viene in mente appunto tutto l'aspetto dello scandalo scommesse, dove sono stati coinvolti vari signori, doni e via dicendo. E in tutti questi casi più si è, come dire, famosi, più si è convinti del fatto che non può toccare a me cadere in questa spirale. E nel momento in cui mi rendo conto non ho più poi le forze per uscirne, proprio perché si ha la vergogna di avere un problema di tipo psicologico. Certo, anche questa è un'altra angolazione da cui provare a vedere le cose e tentare di spiegarle. Scrive Mirko Capacci da Arezzo, la ringrazio per aver fatto parlare il professor Mecacci, anch'io ho sofferto e soffro talvolta di depressione, ne soffriva anche il maestro Montanelli, e quindi dal contadino, come sono io, al letterato. L'importante è che la gente non abbassi la guardia. Grazie, questo è un altro magnifico messaggio relativo appunto all'argomento di oggi. Stefano ha chiamato dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma niente, guarda, io premetto che non sono né famoso né ricco. Mi fa ridere le considerazioni, mi fanno ridere le considerazioni di chi pensa che se uno è ricco e famoso non ha diritto al malessere, no? È brutto pensare che ci siano persone così, perché pensano che i soldi siano la medicina per tutti i mali di per sé. Mi spiace per loro, ecco. No, beh, a me spiace per loro per due ragioni. Non solo perché la pensano così male, ma perché evidentemente hanno invece problemi di sopravvivenza. Ma lo sa Stefano, però entro certi limiti io credo che sia anche legittima questa reazione, che sia istintiva, che sia umana. Cioè io devo arrabattarmi dalla mattina alla sera per sbarcare il lunario, non ho tempo di sentirmi depresso. In fondo è una reazione, una spiegazione umanissima questa, no? Ma io conosco persone molto che hanno, diciamo, sono molto ricche, ma per gestire questa ricchezza si arrabattano dal mattino alla sera, con molti meno problemi di chi si arrabatta per arrivare alla fine del mese, intendiamoci, cioè con problemi diversi, però questo non li esime da soffrire di depressioni. No, lo credo, non, che non li esima sono d'accordo, che poi magari abbiano diritto a qualche attenuante in meno, io lì sono disposto a seguire, no, non la demagogia corrente, capiamoci, ma insomma qualche riserva, no? su certi comportamenti, oppure su certe facility, no? Così parliamo un po' bene e ci facciamo e ci imbrodiamo un po' su certe facilitazioni e agevolazioni che la vita ha riservato a, a una certa categoria di persone, che questa categoria di persone non è riuscita a cogliere, o comunque non se ne è fatta aiutare abbastanza rispetto ad altre che invece hanno dovuto fare molto più fatica. Io ho capito in pieno il senso del suo intervento e lo condivido, però insomma, ci metterei anche questo distinguo. Certo, è difficile uscire da questo argomento di oggi, e mi fa enormemente piacere, intendiamoci, perché insomma al momento di sceglierlo stamane qualche perplessità c'era, sinceramente. Mi fa piacere anche che sia arrivato, e qui esco un attimo, ma i vostri interventi possono continuare a vertere, intendiamoci, su questo argomento. Mi fa piacere, anche se non c'è ancora la sua voce, non più giovanissima ma sempre fresca e combattiva, non c'è la voce del Trump che conferma il suo rinnovo con l'Irlanda, ma c'è la dichiarazione testuale: sono davvero felice di continuare il lavoro sulla panchina dell'Irlanda, sia io che Marco Tardelli. Crediamo fortemente nel lavoro di sviluppo e di crescita della squadra, è un onore e un privilegio rappresentare la nazionale irlandese, e guardiamo avanti verso nuovi traguardi. Allora, i nuovi traguardi sono non solo la raggiunta qualificazione agli europei, ma è l'avventura mondiale, visto che la coppia Trapattoni-Tardelli è stata confermata su questa panchina irlandese fino al 2014, cioè fino al mondiale brasiliano compreso. Faccio notare che nel 2014 Giovanni Trapattoni avrà la fresca età di 75 anni, avendone 72 e mezzo al momento. Stefano l'abbiamo già ascoltato. E allora Giuseppe dalla provincia di Lodi, buongiorno. Garanzini. Dica. Allora, grazie per l'opportunità di parlare. Allora, io volevo dire che ascolto quando riesco più che volentieri la sua trasmissione nella pausa così pranzo di lavoro, e se devo essere sincero, oggi quando l'ho sentita accennare all'oggetto della trasmissione di oggi, ho storto un po' il naso, se devo essere sincero, inizialmente, perché non riuscivo a collegare quello che è successo purtroppo con Magri, con lo sport. E invece adesso, passata tutta la trasmissione e così ascoltato gli interventi, le email di chi è contro, di chi è a favore... Adesso mi lasci completare, vediamo se indovino, e questo è un grandissimo complimento che lei mi fa e ci fa a tutti noi. Adesso invece le sembrerebbe assurdo tornare a Juventus-Napoli e a Galliani e al tavolo di Moratti, o no? Mi ha tolto le parole di bocca, no. Volevo dire che è stato un piacere ascoltare la trasmissione per il modo in cui è stata trattata la sensibilità. Chiamavola pure laica, che però mi è piaciuta. Laica. Ma vede che non è poi un approccio così. Per carità, non pretendo che sia condiviso da tutti, però può darsi che una sua, diciamo, modesta nobiltà ce l'abbia. Giuseppe, la ringrazio, è su uno dei complimenti migliori che si possano ricevere facendo questo mestiere. Beh, intanto, finché ce l'ho sotto gli occhi, perché i messaggi sono davvero tanti a scorrere sul display, devo ricambiare un abbraccio di un ascoltatore da Ivrea a nome Emilio, e lo faccio con grande piacere. Max D'Alecco scrive che questa è una delle puntate più interessanti dell'intera serie di questo programma, che pure non è giovanissimo. Maria scrive: ho sofferto di depressione nel periodo che sembrava, visto da fuori, il più positivo della mia vita. Il problema sono i pregiudizi, conclude. E poi tanti altri ancora potrei. Ho esultato per l'assenza di Cavani, scrive uno. Sono un po' fuori tema, no? Un po' tanto juventino, ma non è grave, cioè non è ancora una patologia, almeno che sappia io. E poi comunque di sportivi puri, no? Che non esultano per la juventini che non esultano per l'assenza di Cavani, o napoletani che non sono affatto dispiaciuti per l'assenza di Marchisio, credo che abbiano non la maggioranza assoluta, di più. Ripasso della storia, il 29 novembre affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 29 novembre 1990. Il Milan vince per il secondo anno di fila la Supercoppa europea, battendo la Sampdoria di Viale e Mancini. Dopo aver pareggiato a Marassi per 1-1, nel ritorno, giocato a Bologna per l'impraticabilità di San Siro, la squadra di Sacchi si impone per 2-0, con gol di Gullit e Rijkaard. Si tratta della prima edizione della Supercoppa europea disputata da due squadre della stessa nazione. Succederà di nuovo nell'edizione del 1993, quando il Parma batterà il Milan di Capello, e nel 2006, con il successo del Siviglia sul Barcellona. Grazie come sempre a Nicola Filippone che mi segnala anche due compleanni di oggi, il 38enne oggi per l'appunto Ryan Giggs e un signore che ne avrebbe compiuti oggi 72 e che invece è scomparso da qualche anno, che era nato a Milano, coetaneo di Trapattoni, 29 novembre 39, Sandro Salvadore, che crebbe nel Milan e poi si affermò nel Milan e poi però la sua carriera fu quasi tutta nella Juventus, uno dei più grandi difensori della sua epoca, duttile, poliedrico, personalità, anche cattiveria, un difensore che se ci fosse oggi garantisco a chi magari non l'ha mai sentito nominare sarebbe centrale, titolare fisso in nazionale, ma direi proprio con le categorie, no? Rispetto a chi invece oggi in nazionale ci abita. Oggi sono anche 112 anni dalla fondazione del Barça, mi segnala Franco Piantanida, non è un grande momento per il Barça, ma 112 anni sono pur sempre una data, un compleanno rispettabile. Barcellona tra l'altro gioca stasera in campionato contro il Rayo Vallecano, deve anticipare perché tra un po' si imbarca alla volta di Tokyo, no, non mica più di Tokyo, Dubai, dove si giocano l'intercontinentale, e che ovviamente è il vero favorito, ma che già gli è costato comunque mezzo campionato, perché è staccato di 6 punti dal Real Madrid con la sconfitta di domenica fuori casa contro il Getafe. A proposito, l'argomento di oggi ha ovviamente fatto slittare l'appuntamento di calcio internazionale a domani, che si sommerà ai commenti su Juventus-Napoli. Franco ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno Don Garanzini, io volevo portare la mia testimonianza. Io ho giocato a livello di quarta serie, ho giocato a calcio a livello di quarta serie e ho sofferto di depressione. Il mio psichiatra, che tra l'altro è un luminare, anche lui è un Renato Ariati di Bologna, lui mi disse che la depressione può venire anche dopo grossi, in soggetti predisposti, chiaramente, dopo grossi sforzi fisici, quando tu sei molto affaticato. In poche parole, la depressione è molto più fisica di quello che uno pensa, non è un fatto solo psicologico. Cioè, si mettono in moto dei processi a livello fisiologico che vanno a colpire l'organo del cervello, come ti può venire il diabete, che non ha certo origine psicologica, ti può venire una depressione, proprio è una cosa molto più fisica di quello che la gente pensa. Per questo può venire a chiunque, non c'è una motivazione, sei ricco, sei povero. Certo, è molto più fisica di quello che uno pensi. Pensi che c'è un ascoltatore che ha appena scritto, Stefano, con una definizione bellissima secondo me, amaramente bellissima. Stefano scrive: purtroppo la depressione è la malattia più democratica che ci sia. Perché in effetti tutti sono... Adolfo da Campobasso mi scrive: perché lei che si professa laico richiede attenuanti per la morte volontaria? In fondo è una scelta intima degli umani. Io non richiedo attenuanti, richiedo piena titolarità per la morte volontaria. Ma questo è un altro discorso ancora, che non c'entra con tutto quello che si è detto fino adesso e non c'entra col tema della puntata. È solo per mettere a punto una cosa. Non si chiedono sconti in queste cose, per il mio modo di pensare. Si sceglie liberamente da adulti consapevoli e maturi. Daniele, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, l'ascoltatore di prima col messaggio mi ha tolto le parole di bocca, perché volevo dire anch'io che è veramente molto democratica. Io ho passato anch'io periodi difficili, di depressione, e la sensazione è proprio di un qualcosa che si rompe dentro, di un vuoto, per cui rimango molto colpito quando succedono queste cose, perché purtroppo mi capita di immedesimarci e posso pensare di capire che cosa provano queste persone in quei momenti di solitudine, sconforto, chissà cosa si rompe dentro. Ecco, è veramente una cosa molto molto forte che poi si fa fatica a rimettere insieme. Lo credo. Grazie mille, buona giornata. Daniele, grazie a lei davvero. Io non so come ringraziare tutti voi che state intervenendo, vediamo se c'è ancora spazio magari per qualche voce. Certamente dei messaggi ne arrivano veramente a valanghe oggi, e sinceramente non, in queste proporzioni non me lo sarei aspettato. Vuol dire che insomma, che si può ogni tanto provare, no, a uscire dalla logica. Io ho sott'occhio qua le voci che come sempre oggi Franco Piantanida ha scaricato, no, dalle varie fonti di approvvigionamento, e però sto leggendo i titoli: Petrucci, tavolo sereno, Galliani su Tevez, Moratti su tavolo, sinceramente tutto questo non ha senso, no? In un momento dopo una trasmissione di questo genere, soprattutto non ha senso rispetto a quello che state scrivendo e dicendo. Quindi ascolterei ancora uno di voi prima di chiudere. Armando ha chiamato da Torino, buongiorno. Provincia di Torino, buona giornata Gigi, grazie per questa trasmissione che mostra sensibilità e umanità. Se gli allenatori, un appello, insegnare ai ragazzini, insegnare a chi fa sport a chiedere aiuto, perché molte volte invece lo sport insegna a non aver bisogno degli altri, e quando succede di cadere in depressione, come ha detto il professore, non bisogna vergognarsi di essere uomini o donne, di essere persone, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto, è la cosa più importante nella vita, imparare a chiedere agli altri. Grazie Gigi. Oh, grazie a lei, ma grazie soprattutto, no, grazie a lei per aver colto questa che direi è la perla dell'intervento del professor Mencacci. Dobbiamo smettere di vergognarci, ha detto, e credo che sia stato un messaggio che non a caso, no, ha colpito lei, ha molto colpito il pubblico che oggi era all'ascolto. Quindi, a parte il fatto che devo fare un piccolissimo inciso invece di carattere sportivo, perché c'è un controcontrordine, nel senso che il Barcellona va davvero in Giappone, perché lì si gioca l'intercontinentale. Devo un ringraziamento forte davvero a tutti voi oggi per la partecipazione che avete avuto a questo genere di puntata. Lo devo al professor Claudio Mencacci, psichiatra e direttore di neuroscienze al Fate Bene Fratelli di Milano. E poi, come sempre, grazie a Franco Piantanida in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Buon pomeriggio a tutti.